Tanto andiamo in chiamata. Allora, intanto, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, ciao a tutti. Non Aspetta, devo cominciare pure io allora. Sì, lo so, non mi interessa. dai. Ah, Ciao. sei già partito? Ma Tu perché passi ci mette questo. sempre 12 ore? Perché è un computer di merda. Perché Comunque. non uso OBS. E No, perché uso ho un computer. OBS purtroppo, ma questo lo rallenta solo. Boh, devi premere un tasto, cioè non penso che sia, Lo no? so, cazzo, è il computer di merda che vabbè, comunque. Ed è un Mac. Bravo. Sì, è un Mac. E volevo dire che oggi proviamo Anime Sangue. Cioè lo proviamo proprio. Nel senso che nessuno ha letto il regolamento e quindi. Quindi Boh, proviamo. Ah, intanto io devo condividere il link con Marco. Condividi WhatsApp con Marco. Speriamo che ci segua. E poi niente. E allora, i personaggi sono più o meno già pronti. Chi vuole cominciare? a fare cosa? A descriversi e dire che cosa ha fatto, chi è, come fa, cosa fa, perché. Devo cominciare io, no? Ma devo dire anche tipo da dove è entrato, quindi. Boh, vabbè, basta che ti presenti. Il tuo nome? Noctis Lucis Cerum. Cosa? Non è questo, che devo fare? Celum. Latino. Latino, Caelum. Bravo, Ok, e chi sarebbe? Sono l'erede al trono di una nazione. Cioè, eri l'erede al trono di una nazione. Quindi, vabbè, sono diventato re nella mia vita, ma sono morto. Spoiler. Scusate, spoiler, vabbè. Non dico. Ma tanto lo sanno tutti, vabbè, tanto non ci devo nessuno, chi se ne frega. Sono morto praticamente dopo che sono diventato. Poco In un dopo che sono dungeon. diventato re. In un dungeon, quasi in un dungeon. Ero l'erede al trono di questo stato che è stato, diciamo, praticamente raso al suolo dagli imperiali. Sembra un po' Star Wars, ma effettivamente è più o meno così. Ho realizzato i poteri dei re, che sono dei poteri ancestrali e magici. Ok, i colori? Le specificità sono naturali, aver sconfitto diciamo, l'imperatore, che in realtà era. Vabbè, non spoilerò troppo, Ok, dai, i basta. colori? Poi ho sconfitto l'imperatore e sono morto perché la mia morte era legata in qualche modo all'utilizzo dei miei poteri, insomma. Ok, colori? Colori, acciaio e nero. Ok, In che perché senso? acciaio? Allora, puoi Acciaio perché descrivere sono. acciaio con una parola. Allora, ti leggo quelle che propone il manuale. Acciaio è associato a leale, cavalleresco, fanatico, imperturbabile, inflessibile. Oppure qualcosa di simile. Diciamo un leale guerriero, alla fine. Ok, Una specie di. tipo cavalleresco. Cioè, più o meno, cioè, diciamo che all'inizio ero una specie di adolescente che se la tirava, ma piano piano ho, diciamo, riconosciuto i miei doveri e sono diventato un re leale e fedele al mio popolo, un guerriero, una specie di paladino, insomma. Ok, e secondo colore? Secondo colore nero, Vabbè, nero ovviamente dice crudele, melanconico, disilluso, vabbè, puoi inventarlo tu. vabbè, in realtà sia melanconico che disilluso, perché melanconico perché praticamente la mia storia da re inizia con mio padre che muore ucciso in un attentato. Quindi, diciamo che per un po' tutto il suo viaggio sono. triste per questa vicenda, o comunque per tutte le vicende che si susseguono nel mio percorso. E niente, Va boh. bene, e quindi tu sei livello 1, hai messo già le statistiche e hai scelto un incantesimo che è una magia, che Allora, sì, avevo scelto. Aspetta, non mi ricordo il nome un attimo. Vabbè, ora te lo dico comunque. sì. E poi basta, direi. Tutti voi avete potete mettere anche i valori di valore e punti magia. Ma a me li ha messi in automatico in quell'Excel, cioè mi ha messo due numeri. Esattamente, perché valore si calcola 15 più le varie minchiate e magia è il doppio dei punti magia. Ok, perfetto. Ok. Ah, perché ora la facevo in automatico? Excel lo facevo in automatico. Ah, pardon, ok. Vabbè, ma chi se ne frega. Vabbè, io perché... Ah, no, perché quella. Non sono questi calcoli difficili. Ok, aspettate che trovo una roba che mi sono scordato. Forte valore di magia dentro l'azione. Com'è? L'azione, Di le adiezioni cose. avete due. Siete da D più B. Zanner P, digitato. Da azione, dove si scrive? Abbiamo qua ci sta, questa su Excel è strana. Ecco, pensavo di prendere il nome del vampiro. Ok. Che cosa fa? Allora, praticamente ogni volta che il mio personaggio, cioè vabbè, l'arma uccide un nemico, guadagna più X. Si è frizzato Edo. Sì. Mi si è frizzato tutto. Vabbè, lo scopriremo dopo. Aspetta che glielo scrivo magari. Sì. Mi sentite? Pronto? Ora sì. No. Email. Ora sì. Ora no. Ah, ho Ora visto. sì. Ci sono? Sì. Mi sentite? Sì. Ok, non so che cazzo sia successo. Beh, pace. Comunque, vabbè, ogni volta che uccido un avversario guadagno più X di valore. Ok, In cui quindi X è... è una magia doppia, giusto? Sì, nera, cioè acciaio nera. Ok. Va bene. E chi fa adesso? Ah no, scusa, l'arma? L'arma è una spada corta, se vuoi ti do una foto. È particolare, immagino. Sì, è un po' strana. Ok. Chi altro vuol fare? Io. Va bene. Odis. Allora, spirito di hybrid, librido sarebbe, vabbè, che sarebbe il dottor Wu in sostanza. Vediamo. Colore primario blu. No, aspetta, chi sei? Allora, sono lo spirito del dottor Wu. O il dottor Wu, non lo so che devo dire. No, sei il dottor Sono il sì, ok, sono il dottore. Wu. Quale dottore? Beh. Chi? No, aspetta, se io, cioè l'anima contiene tutti e 13 praticamente. cioè un misto, ok, però la personalità è... la mia personalità sarebbe quella dell'ultimo, ok, di com'è che si chiama, Capaldi. Capaldi, sì. E va bene, quello matto. Va bene. Arma cacciavite sonico. Ok, che è un'arma a distanza, giusto? Sì. Quindi fa danno a distanza. Mm-hmm. Ok. Ricordiamoci che per le armi a distanza vi serve un dado azione per caricarla ogni volta che la usate. Ok. Ma devo scrivere a distanza qua? No, vabbè, lo sai, pace. E, ok, i colori hai detto blu e bianco. Sì, blu perché conoscenza, curiosità, boh, una cosa del genere. Sì, potrebbe essere, qua lui dice diplomatico, logico, manipolatore, sospettoso, meticoloso, però può essere tipo logico. Tre di queste sono del dottore proprio. Sì. Ok. E invece bianco e... Bianco. Compassionevole, altruista, se mi chiedete qua. È altruista, nel senso lui va in giro a aiutare le persone, tipo così, quindi... Ok, perché sei in un'arma? Sono in un'arma perché praticamente avevo finito le rigenerazioni e tutte e la serie e si vergognava di aggiungerne altre... Ancora? Ancora, di aggiungere altre ulteriormente fuori, anche perché la tredicesima, ricordiamoci che non è quella, esatto, o sì, no, non è quella, cioè, quella sarebbe, lui sarebbe il dodicesimo, però sarebbe il tredicesimo, esatto. Esatto, cioè perché ho detto tutte e 13, sì, sì. Sì. E praticamente lui già aveva salvato l'anima di una persona nel cacciavite. E poi la poteva usare tipo chiavetta USB e rimetterla in dei posti. Sarebbe episodio 8 e 9 della stagione 4, diciamo, non sto inventando. Spoiler, spoiler! E quindi praticamente quando muore fa la stessa cosa con la sua anima, però non è una cosa provvisoria, cioè lui si lega permanentemente al cacciavite. Che è fondamentalmente come fa con l'orologio con se stesso. Non proprio. Come l'orologio, aspetta. È la punta da quando diventa umano. Ah, ok. Ah, è vero, non ci ho pensato per niente all'orologio, sì. Però sul cacciavite. Però sul cacciavite, sì. Cioè la sua anima non è più legata al corpo del dottore, ma è dentro al cacciavite. È dentro al cacciavite. Ok, e ha deciso lui, però. Sì. Ok, ci sta. Quindi che altro ti devo chiedere? Ah, la magia che hai preso? La magia è ingegno magico. Ok. Ok. E Jacopo? Allora. Bravo. Cosa bravo? Niente, ho interpretato il personaggio di Jacopo. Esatto, io sono Rick Sanchez, ho difficoltà stasera a sfruttare, infatti non mie. Essenzialmente è quell'idiota di morti che mio nipote mi ha fatto uccidere, o meglio, tutta la famiglia mi ha fatto uccidere, durante diversi salti di coscienza. Cioè, piccoli spoiler per chi non ha visto la 3x01 tipo Edoardo, ma diciamo che durante la mia fuga di prigione... mentre cercavo di scappare, diciamo scambiando coscienze, sono per sbaglio finito in una dimensione parallela, o meglio la mia coscienza, il mio spirito è finito in una dimensione parallela e diciamo non avendo molto tempo mi sono messo in una portal gun di un altro Rick morto. Ok, va bene. E niente, questa è la storia. Quindi la tua arma è la portal gun che fa da farà danno, farà danno a distanza come quella di come il cacciavite di Odys. Ricordo sempre che ricaricarla è un'azione. Ok. Cioè un'azione, un dado azione, non un'azione. È una porta organa difettosa che non riesce a sparare portali, ma può comunque elettrificare la gente. Ok. E colori? Colori sono blu e giallo. E perché comunque Rick è uno scienziato, per chi non sapesse chi è, tra le numerose persone che ci seguono, è uno scienziato molto cinico, molto assurdo. Ci sta anche manipolatore, logico, sospettoso, meticoloso. Logico. Sì. Riesce a capire una cosa dopo pochissimo che la serva. E giallo ci sta da Dio perché è tipo festaiolo, millantatore, curioso, scorretto, ipocrita. È tutto. Però la cosa che ho scelto come primaria è il blu, perché comunque la sua, diciamo, qualità più impressionante è riuscire a capire una cosa al volo, come appunto il viaggio interdimensionale. E la magia l'hai presa? Comprensione. Ok. Non a caso. Ok, poi ci sarà Gava che non giocherà. Allora, l'episodio di stasera si chiama Gladiatori della Bilancia Cosmica. E ovviamente all'inizio voi siete morti, quindi siete in una sorta di buio infinito, eterno, di cui non conoscete l'inizio né la fine, avete perso ogni legame con la realtà. Okay. Edo è scomparso, è esploso. Sì, sta al telefono. Ah, ok, vabbè. Quello che succede però è che a un certo punto voi due aprite gli occhi e venite accecati da una luce e assordati da urla e grida, che è la stessa cosa forse. Vi guardate intorno e siete in mezzo a una sorta di arena. Sugli spalti la gente urla e davanti a voi ci sono altre due persone come voi. Altri due uomini. Ma voi potete... due chi sarebbe? Aspetta. Come? Voi due chi sono? Tu, I Luca due... e Jacopo. Ah, Luca e Jacopo, ok. Allora, intanto potete segnarvi che avete un corpo di livello 1, che ha uno a tutte le caratteristiche, che quindi okay. si sommano a tutte, cioè i vostri punti dello spirito si sommano ai punti del corpo. Ok. L'altra cosa, e scusate, ha più uno a tutto tranne magia, che non ha magia. Zero. L'altra cosa, avete entrambi un punto eroismo. Punto eroismo, uno. Ok. Poi dopo vi dico che cos'è. E quindi vi guardate intorno e fondamentalmente siete voi due e vi riconoscete subito perché siete nei corpi di due esseri umani di taglia normale, non troppo grassi, non troppo magri, abbastanza atletici. In mano ognuno vede l'arma dell'altro, siete vestiti solo da una tunica, però quello che riuscite a vedere chiaramente è sopra ognuno di questi umani lo spirito che lo possiede. Quindi tu, Jacopo, vedrai Luca e tu, Luca, vedrai Jacopo. Ok. Le altre due persone si stanno guardando intorno invece e vicino a voi. Vicino a voi ci sono anche quattro piedistalli, due vuoti e due con due armi che non riuscite a riconoscere. Chiaro? Più o meno? Aspetta. Ok, sì. Penso che non... Quindi voi due riuscite a vedere che anche quell'altro essere umano ha uno spirito. Cioè vedete il Rick sull'uomo di Jacopo e il dottore sull'uomo di Luca. E riuscite a vedere anche i colori che dominano questo spirito. Ok. Non sapete perché siete qua, non sapete che cosa fate qua. L'unica cosa che sapete è che vi siete risvegliati da un tempo indeterminato. Io guardo Luca, cioè guardo lo spirito di Luca e faccio non ancora questo perbenista, tipo non dispiace. Probabilmente sì, si conoscono. Buonasera. Oh mio Dio. Ciao. Buonasera. Poi? Io faccio una cosa, mi tocco i capelli, cioè provo a staccarne qualcuno per vedere se sono rosso, se hai capelli rossi. Accidenti, Non hai i capelli rossi. neanche, dico neanche in questa, neanche in questo corpo. E poi, ok, se mi guardo intorno e... L'arena è vuota, a parte queste persone e i quattro piedistalli. Vedete ai lati delle grate e sopra gli spalti gente che urla. Scusa, Jacopo ha un'anima che io vedo, ma gli altri due hanno il coso sopra, hanno anche loro un'anima No, o gli altri due no. no? Ok. Ok, vedi che Allora... uno dei due si avvicina al piedistallo, si guarda intorno e prende una sorta di spada corta. Edo, dicevo, tu sei nell'oscurità e sei stato nell'oscurità senza vedere la realtà, insomma, quindi perso nel vuoto, per un tempo che non sai quantificare. Quando a un certo punto apri gli occhi. Apri gli occhi e sei in questa arena e anche tu hai un corpo che puoi segnarti, un'anima di livello 1 con uno alle prime tre caratteristiche, zero magia. Non so se sono le prime tre, però. Boh, sì. Un attimo, cioè non scrivo sul telefono perché il mio studio tablet si sta aggiornando, quindi Windows. Ok. Allora, anima livello 1, Sì. E ha più quindi uno alle tre caratteristiche, cos'è? Vigore, movimento e cos'era la terza? ok, e poi zero in magia. Ok, Sì. E questi si andranno a sommare a quelli che hai tu poi. Noti che sei in un corpo di un essere umano e ok. vedi vicino a te una persona, un altro essere umano, vestito solo da una tunica, e altri due esseri umani vestiti da tunica, ma sopra di loro riesci a vedere due spiriti che li possiedono, e sono Luca e Jacopo, e riesci a vedere anche i colori che dominano le loro nature. Perfetto, Ora ok. faremo una pausa poco narrativa per capire che personaggio agava. Ma lo sai già? No. Lo dico. Come lo reggia? Gava, nome. Omino di pan di zenzero. Omino di pan zenzero. Ok, colori. Bianco, Bianco. perché bianco? Perché voglio fare il... No, perché mi piace fare il supporto. No, bianco indica la tua natura, quindi onesto, buono, gentile, altruista, umile, prode, compassionevole. Ma non è quella roba di cura e scuda? Non ho capito. Nel gruppo che aveva scritto. Devi giustificarla parlando della tua... Cioè, ogni Ah. colore rappresenta la natura che ha lo spirito. Mi ripeti un attimo le cose che hai detto? Quali erano le possibilità che posso scegliere? Ogni colore No, ho determina. capito, ma prendi il bianco, dicevo. Ah no, non puoi scegliere tra queste, ma anche inventartele. Il bianco rappresenta una sorta di altruismo. Aspetta, adesso ti faccio vedere. Non necessariamente buono, ma comunque. E Cristo sono le descrizioni. Bianco, bianco, bianco. Ecco qua. Caratteristiche principali. No, dov'è? Ecco, la luce che guida al giusto, la forza che viene dalla, della pace, che sarà dalla pace, dalla calma e dalla protezione. Tendono ad essere, diciamo, buoni per la morale comune, bontà che si associa alla guarigione, alla difesa, alla passività, alla non violenza. Però dipende dal bianco. Nel senso che puoi essere buono, non violento e pacifico a modo tuo, quindi in realtà se uno ti fa girare le palle puoi comunque picchiarlo. L'importante è che tu sia un diciamo benevolo oppure nobile, quindi se c'è qualcosa di sbagliato tu non lo giudichi sbagliato e no, tu lo giudichi sbagliato e non lo difendi, mentre c'è qualcosa di buono e nobile lo difendi. Ah, ho capito. Buono, non è buono, è più la difesa del buono. Sì, ok. Ok, detto questo, tu quindi sei bianco. Perché? Perché sono buono. Sembra un esame. Ok, va bene. L'arma che hai? Oddio, non mi ricordo come si chiama quel coso appuntito, il bastoncino rosso e bianco. L'avevo scritto, aspetta. Ok. Candy cane. È un bastoncino di zucchero appuntito. Sì, adesso lo rivedo nella chat se l'avevo scritto. Si chiama Candy Cane, una cosa del genere, no? Sugar cane, candy cane. Il bastoncino di zucchero, candy cane. Ok, e qualcuno che ha il bianco, tipo Odis, hai bianco? Come secondo? Puoi mandare le foto che ti ho mandato a Gava, così sceglie la magia e... mentre noi andiamo avanti. Quella che riguarda il bianco. Nel frattempo possiamo dire come è morto. Come sei morto, Gava? Ma non so se hai mai vissuto, Gava. Ma io credevo di morire in questa sessione, non di essere già morto. Non ho capito. Vabbè. Cioè, il tuo spirito è stato imprigionato nel bastoncino di zucchero. Ah, ok. C'era una parte di conversazione che è stata rimossa. Non so se è rimossa dal cervello. No, io ho detto, però sta cosa dell'anima non c'è mai stata. Forse è arrivata per voi. Vabbè, certo, ok. Guardo farla vinta. Ok, adesso Luca ti manderà due fogli, cioè due foto di due fogli, con una lista di magie, che tu ne puoi scegliere una sola, non asteriscata. Ok. Ok. Detto questo, dicevo, quindi siete tutti e tre, poi appena Gava sceglie la magia, tutti e quattro, in questa sorta di arena, riuscite a distinguere sopra agli altri uomini gli spiriti che abitano l'uomo e vedete anche in mano ognuno l'arma dell'altro. Ok. Degli altri. Via? Come vengono? Da me lo metto io. Per il resto siete al sole, okay, in mezzo a un'arena e con una folla di gente urlante dagli spalti. Ah, oh. Ma tipo arena, cioè tipo arena gladiatori? Sì, una sorta di colosseo. Ah, oh. La prima cosa che dico mi sa cosa ci faccio qui. Io ero morto. Ok, uno dei due uomini, quello che ha l'anima di... Tu come sei fatto fisicamente? Vabbè, aspetta, in teoria però è un uomo qualsiasi, cioè non è un uomo... No, però gli altri vedono lo spirito sull'uomo. Ah, ho capito. Cioè, tutti voi, tra di voi, riuscite a vedere l'anima, cioè lo spirito che possiede il corpo, sopra il corpo. Ho capito. Quindi in realtà le nostre fattezze sembrano quelle proprio dello spirito, cioè di quello che... No, allora, le vostre fattezze sono quelle dell'uomo, le fattezze dello spirito sopra sono quelle dello spirito. Esempio, o mi bambino, voi vedete anche sopra il pirata. Ah, ok, ho capito. Chiaro, cioè, e vedete anche i colori delle nature che lo... Ok, no, pensavo fosse tipo femmella, tipo... No. Quindi dicevo, fisicamente come sei tu? Allora, fisicamente sono un praticamente un ragazzo di 20... No, in realtà no. No, sono un ragazzo sui 30-35 anni. Ammazza. Quindi direi più che ragazzo adulto. Ragazzo adulto, con capelli lunghi e scuri, barba. Ok. Sono abbastanza chiaro di carnagione. E ho degli abiti regali. Tu sono praticamente vestito tutto di nero, con degli abiti regali abbastanza lunghi, che però mi consentono di, cioè, mi consentivano di combattere comunque. E ovviamente voi altri vedete i suoi colori, acciaio e nero. Ma come li vediamo? Tipo attorno o... Ah, quello potete descriverlo voi come vi piace. Può anche essere solo nelle vesti e una sorta di luce, oppure... Fatto sta che riuscite a distinguere perfettamente le nature che compongono ogni spirito. Ho un occhio acciaio e un occhio nero. Va bene. Sì, non so come si raffiguri il colore acciaio, ma ok. Ok, e quindi niente, siete in questa bellissima arena. Ah, ecco, qua per esempio tipo una sorta di fulmine. Vabbè. E vi state guardando intorno e non capite bene cosa è successo. Io, quindi la situazione è questa: ognuno ha un'arma in mano. C'è la sua arma in mano. La sua arma in mano e c'è uno spirito sopra. Sì. Ci siamo solo noi quattro? Tre. E sì, un omino che si guarda intorno. Io faccio, bando alle ciance, prendo la pistola e sparo all'omino che non ha lo spirito sopra. Ok, tira su vigore. Allora, tutto il gioco è basato sui tiri del dado da 20. E voi potete spendere i vostri dadi azione per tirare, per colpire. È come se spendeste l'azione per fare una cosa, allora tirate quel dado... il dado che avete speso di questa azione. Non so se mi sono spiegato. Tipo due dadi azione, io voglio muovermi e quindi usi un dado per muoverti, e sparare e quindi usi un dado per sparare. In quel modo tirerai un dado che è quello che hai speso. Ok, quindi se voglio solo sparare mi basta tirare un dado azione, oppure ne puoi tirare tutti e due per sparare. Ah, vabbè, tutti e due. Ok, se tirate più di un dado, prendete un dado bonus. Quindi due dadi sono tre dadi in realtà. Sono tutti dadi da 20. Prendete il risultato più alto e sommate la caratteristica che state usando. Se ci sono dei doppi, i doppi vanno sommati. Ah! Quindi, cioè, quando tiro due dadi, in realtà ne sto tirando con vantaggio. O tre, se tu tiri due dadi ne tiri tre, cioè se tu usi due dadi ne tiri tre. Sì. Ok. Un vantaggio, se sono due doppi li sommo, cioè faccio il doppio praticamente. Non so cosa sia il vantaggio però. Vabbè, ok. No, tu tira tre dadi, guardi tre risultati e prendi o il più alto oppure la somma dei doppi più alta. Ok, quindi ho fatto 16, devo sommare... E ci sommi per colpire vigore. Vigore, cioè violenza. Immagino. E violenza, scusami, sì. Quindi più 3 ho fatto 19. Ok, tu devi superare... se superi 10, l'azione ha avuto successo. Ok. Se superi il... cos'è? Vigore, no, valore. Che cazzo è la caratteristica? Se superi il valore dell'avversario, sì. Puoi scegliere tu cosa fare, ucciderlo, ferirlo, stordirlo. Descrivi tu. È morto all'istante. Cioè, ah, ok, ho capito, non è tipo una punti ferita, ok, cioè, Punti ferita non semplicemente. esistono, ma se tu hai successo e non hai superato il valore, allora togli di uno il vigore, no, il valore Ah, dell'avversario. ho capito. Ed è E considerato una ferita. in questo momento il tizio non ha ancora lo spirito di gara, quindi No, devi vi dico fare. un'altra cosa. E allora, Odys non so cosa abbia sentito di sta parte, comunque sia. L'ultima parte sul che deve colpire. Ok, comunque sia, potete usare un punto eroismo e tutti voi avete un punto eroismo adesso. Il punto eroismo vi dà un dado in più e un più 10 alla prova. E i punti eroismi, vabbè, vengono assegnati a fine sessione, a seconda di come hai giocato, eccetera. E l'altra cosa, potete anche difendervi, però dovete avere ancora dadi disponibili. Quindi se tu avessi tirato un dado solo invece che due, l'altro dado l'avresti potuto tenere per difenderti, tipo schivare o parare, eccetera. Quindi tu hai Non tirato sono due dadi, hai sommato il punteggio, hai fatto? Ho tirato 3 dadi, ho Tre preso il più dadi. 19. alto, quando ho fatto 19. Il punteggio in valore dell'omino è 18. Quindi posso Quindi decidere cosa descrivi. serve. Descrivi tu. Vedi praticamente che dalla porta al gun esce tipo un raggio di energia e si crea tipo una piccola scarica di elettricità, però invece di formare un portale, semplicemente la sua testa si separa dell'omino. Vedi la testa che fa così. Ok, si apre e voi tutti vedete questo, vedete, spara e la testa si apre. E allora hai scelto la magia. Sì, scusami, perché hai tirato 3 dadi? Non ho capito. Perché ho scelto di tirarne subito due invece di tirarne solo uno e di muovermi o fare altro. Quindi ha detto Salla che se li usi tutti e due per fare una cosa ne puoi usare tre. Hai un Quindi dado devi bonus se usi due usare. dadi. Se usi 2 dadi per fare la cosa, ma i dadi saranno di cosa? Sono Di tutti di 12? 20. Ah, tutti di 20. Jacopo ha Ok. tirato due di 20, vero? Io ho 3 di 20, sì. 3 di 20, sì, ok. E Io dicevo, i ho una risultati sola. pari si sommano, Odys. Tu prendi il risultato più alto. Però se hai dei pari li sommi e se sono superiori al risultato più alto prendi la somma. Valgono loro come risultato più. Ah, ok, no, questa non l'ho capita. Bazzo di Jacopo, che tiro di merda che hai fatto? Invece no, ok. Va bene. Dicevi Gava? Allora, io ho una domanda. Cura del corpo, c'è scritto: una luce calda passa dalle mie mani al corpo del bersaglio, le cui ferite guariscono senza lasciare traccia. Non ho capito se è una cosa a contatto o può essere a distanza. Ah, e se qualcuno ci dovesse ascoltare in futuro, qualcuno che conosce regole, qualcuno che ha fatto il gioco, eccetera, se faccio gli errori è perché il manuale l'ho letto 10 minuti fa. Qual è che hai detto? Nessuno di noi lo correggerà Cura perché del non. corpo. Cioè, non è È a specificato. contatto. Esatto. Perché sopra c'è scritto armatura di luce tutti coloro toccati. Invece qui non parla mai di gente che devo toccare o cose simili. Basta, non mi interessa, è a contatto. Va È a bene. co no, non è a contatto, è per un bersaglio vicino. Vabbè. Quindi Sì, comunque, cura se del tipo sei corpo tra, è se tra per di fare. loro, non li stai toccando, ma sei praticamente vicino a loro e fai un 20, ne curi due. E uno asteriscato, ma uno che non deve essere asteriscato. Ah, avevo capito, uno è uno. Vabbè, cura del Prendi cura del corpo. corpo. Io mi guardo intorno e faccio. Abbiamo capito tutti cosa sto facendo, vero? Figli di puttana, tipo comincio a. Esatto, Io e intanto rispondo di sentite la sì. folla che fa tipo. No, tu sei, non ci sei, Gava. Tu sei un vuoto disperso. La prima parte faccio comunque di sì, ho capito. Anzi, il tuo PG non è neanche entrato nel corpo, il corpo è stato sciottato prima che il PG, lo spirito entrasse. Questa è la nuova frontiera dell'uccisione. E sono morto prima di iniziare a fare qualcosa. Tu sei morto prima di iniziare a giocare. Per fare qualunque cosa. Non puoi schiattare se non ti reincarni in qualcosa. Invece sì. Beh, questo è un buon meme, effettivamente. E sarà un colpo di scena quando morirà anche il tuo personaggio in Zeros. No. Infatti per un attimo temevo che Gava usasse tipo se stesso. No. Va bene, dicevo... Ma è una gara chi muore di più questo gioco, se no sono in vantaggio. No, non è Paranoia, non è Dungeon World, e... Dicevo, Jacopo, sì. Approfitti di quello che dici dopo per ricaricare l'arma. Sì, mentre parlo e dico, cioè cerco di attirare l'attenzione su quello che sto dicendo. Sì. E mentre nel frattempo ricarico. Ma come ti mi hai ucciso? Sì, ma perché per stabilire siamo... dominanza. Ma sono nemici? No, però che si conosce. Siamo nell'arena, siamo tre vivi. Siete tre vivi, due piedistalli vuoti e un piedistallo con sopra un bastoncino di zucchero appuntito. Ma scusa, a un omino di pan di zenzero grande così, te la sei presa? No, non c'era nessun omino di pan di zenzero, lui ha visto solo un omino. C'era un'altra persona che stava andando a prendere il bastoncino. Tu sei il bastoncino. Sei già morto, sei il bastoncino. Rick ha capito che le tre persone, io ho capito che le tre persone che ora hanno già lo spirito sopra, questo sarebbe diventato quattro, perché se avessi il tizio che saresti diventato tu, avrebbe preso il bastoncino e saresti comparso magicamente tu a controllarlo. E siccome c'è di gente che sta esultando e noi abbiamo delle armi, ho fatto uno più uno e ho stabilito dominanza. Cioè... Sto tizio che stava andando a prendere il bastoncino, sì, mi faceva tipo resuscitare. No, tu diventavi lui. Di zenzero. No, tu diventavi lui, cioè tu controllavi il suo corpo. Così sto cazzo di omino di pan di zenzero andrà a finire. È già morto. Non esiste, non c'è, c'è il bastone. Finché nessuno prende il bastoncino di zucchero, non serve a niente. Gava, se nessuno prende il bastoncino di zucchero, nessuno, cioè tu sei nel bastoncino di zucchero, quindi rimani lì. Dicevo, Jacopo, ti segni un'anima di livello 1 tra le anime, dovrebbe essere a destra della scheda, mi pare. Ok. Ogni volta che uccidete qualcuno con l'arma, prendete la sua anima. La sua anima può essere usata. Può essere usata per diversi in diversi modi. Tipo, se Jacopo dovesse morire, potrebbe usare l'anima di livello 1 per resuscitare il corpo. Quindi se... E se tu dovessi morire, non moriresti se hai a disposizione ancora anime per resuscitare il corpo, rianimare il corpo. L'altro modo con cui possono essere usate le anime è di dare un più al tiro. Quindi la bruci, però gli dai un più uno al tiro che fai. Più uno dado, più uno flat, cioè? No, più uno flat, il più del livello dell'anime. Poi queste si accumulano, come vedi c'è una lista, puoi averne diverse. Sì, tipo 5. Cioè L.A.1, L.A.2, esatto. Queste sono. Esatto, sono le anime di livello 1, livello 2, eccetera, che avete. Ok, mentre Jacopo sta dicendo queste cose, i cancelli dietro di voi, intorno a voi, si aprono. Ah. E da ogni cancello esce una sorta di cane. Un po' più grosso. Seconda mala situazione, scusate, alleati. Un po' più grosso, incazzato, che punta verso di voi. E sentite la folla urlare. Ora mi tirate l'iniziativa. Per tirare l'iniziativa, prendete quello di voi che ha il valore più alto. Questo è un bel problema perché non me lo ricordo. Più alto di perché quando uno legge il manuale 10 minuti prima, non può ricordarsi di magie, fare una magia, zanne, armi, sconfitto, armi, di armi. Avete domande intanto? Io non devo tirare, vero? Per far che? Appunto. Cioè, l'iniziativa, a me non serve tirare. E boh, in realtà no. Gioco tattico. Le azioni. Successo, secondo me. Azione, risoluzione. Boh. Vabbè, il manuale è un po' dispersivo, cioè il fatto che io... Che devo prendere. No, era quella da onde... Quando Excel ho visto che... Ah, ecco, il valore attuale... Ah, questa è una cosa carina di questo gioco. Il valore sono i vostri punti ferita, fondamentalmente. Ok. Chi ha il valore più alto inizia. E a seguire i valori più bassi. La cosa interessante è che se uno viene ferito molte volte, ha valore più basso e quindi comincia dopo l'iniziativa. Quindi non il valore max, ma il valore attuale. Esatto, il valore attuale. Quindi chi ha il valore più alto di voi? Io ho 21. Allora io non sto capendo come si fa a calcolarlo. Devi usare violenza più movimento più interazione più 15. Però come si calcolano quelle cose? Dovevi aver messo tu i punti e più 1-1-1. I punti come li mettono? No? Avevi 6 punti da distribuire. Ah, 6 punti da distribuire, vabbè. Parti a un minimo di 1 e metti 2 in 2 immagini. Cioè, mi scegli tu che la metti a 2 o una la metti a 3 e le altre a 1. Ok, scusate. Okay. E sono dello spirito o del corpo questi? Dello spirito? Dello spirito. Del corpo a 1-1-1. Ok, 0 da mezzo. Dicevo, quindi Luca 21, Jacopo? 23. 23, quindi per ora è in vantaggio, Edo? Non si sa. Quindi Jacopo? Io 23. Ah, ok. Vabbè, e uno di voi due. Non so in caso di pari merito come funziona, ma insieme. Io urlo, sono dei demons e vado a picchiarne una. Farmiamo! Ok, quindi ti muovi, usi il dado movimento e ti rimane un dado. Sì. Puoi provare a Ok, col dado movimento riesco ad arrivarci? Sì, sì, con un dado movimento riesci ad arrivarci. Ok. E allora gli do una spadata. Sì, quindi tiri un dado da 20. Sì. 4. Più violenza, giusto? Più violenza, esatto. Quindi 7. Quindi hai fallito, l'hai mancato. Per colpire devi fare più di 10. 10 o più. Ok. Jacopo. Ho tirato per colpire, ho fatto 18 più 3, 21. Ok, descrivi. E niente, a un cane succede la stessa cosa, gli esplode, si divide a metà. Ok, e puoi mettere un'altra anima di livello 1. Dimmi. Luca. Sparo 6 punti tra le caselle gialle. Sì, se ci arrivo sparo all'altro. C'era un altro cane o no? Mi sono sbagliato. Ce ne sono altri 3. Altri 3, esatto. Ne miro verso uno. Fai uno a te. E uso tutta l'azione per, come si dice, tutti i soldi dati assieme. Ok. Devo vedere. No, no, tiri 3. Tipo se qui funziona con la magia, allora alzo la magia. Sì. 6, 6, 9, quindi posso fare 9, 9, 18? Esattamente. No, aspetta, 6, cosa hai fatto? 6, 9, 9, scusa. Ah, sì, sì, sì, certo, 9, 9. Quindi 18. Più la violenza. Non ce l'ho la violenza. Ah, no, aspetta, il corpo sì, però. No, devi averci per forza, al minimo è 1. No, del corpo sì, però dello spirito posso non metterla? No, no, devi mettere tutte e due. Ah, ho fatto danno, aspetta. Quindi tutte e quattro vanno messe. Sì. Va bene. Allora più 2 20. Ok, descrivi cosa succede. Ovviamente Edo è l'unico che manca. Come al solito. Cosa? Ovviamente Edo è l'unico che manca al bersaglio. Come al solito. Okay. Allora, sì, sparo una specie di ultrasuono che lo fa stramazzare a terra, però non è che lo uccide, lo stordisce definitivamente. Non lo uccidi? Cioè, lo... No. Ah, non uccidi? Ok. E Gava. Allora, un cane va su Luca, uno su Jacopo, uno su Edo, e un cane mangia il bastoncino di zucchero. È buono, lo zucchero, sì. Apri gli occhi, Gava, e ti guardi intorno. Sei un cane. Sei un cane. Sei... Wow. E vedi la scena che ho descritto agli altri. Ok, dicevo, e gli altri cani cercano di colpire. Credete che sia un cane? No, adesso vediamo la tua anima sul cane. Cercano di colpire Edo. 12 più 1, 13. Quanto hai di valore? 23. 23. Quindi adesso hai 22. Ok. Aspetta, perché ha di 22? Ne perdi perché uno l'ha colpito e l'ha ferito. Permanentemente questo? No. Finché non ti guarisci. È tipo i punti feriti. Cioè, tipo qua sulla scheda, dove si scrive? Boh, affianca valore. Sotto valore c'è valore attuale. Esatto. No, dov'è sotto? C'è. No, valore attuale, ok. Oh, vabbè, se lo dici tu. Ok, l'ho fatto. Ok. E dicevo, una ferita anche a Jacopo. E un cazzo a Luca. Gava, di fianco a te c'è un altro cane che vede che hai mangiato il bastoncino e cerca di attaccarti come se lo volesse lui e ti toglie uno di valore. Wow. Puoi usare un tuo dado azione per schivare o due dadi azione per schivare, visto che non hai ancora fatto. Quanto c'ha di coso lui? Di corpo? Di corpo? Hai 1-1-1 come gli altri. Allora. Dicevo, Gava, puoi usare 1 o 2 dadi azione per schivare, visto che non hai agito questo turno. Quindi erano i diventi, giusto? Esatto. Considerando che tu questo turno non hai agito, se li puoi usare tutti e due, quindi tiri 3 dadi da 20. E devi, sommandoli al tuo movimento, devi fare più di 19. 13. 14, sono già sopra con 2 dadi. No, non puoi sommare, devi prendere il più alto. Ah, il più alto, ok. 14 più 2, 16. Hai segnato anche il corpo? No, 17. Ok, che non è sufficiente, però era per farti capire. Ok, perdi 1 di valore. E sentite tutti che i vostri cani vi mordono arti a cazzo. Tocca a... Quanto hai di valore adesso, Gava? 17. Ok. Tocca a Jacopo e Edo. Ok. Uso un dado per provare a colpirlo. Cioè, provo a colpire, insomma. Solo un dado? Sì. Ok. Allora, sommo violenza, vero? Sì. Quindi 21. Descrivi. Gli lacero un fianco e cade a terra. Ok, segna un'anima di livello 1. Ok. Le anime devono segnare qua. Sono le caselline qua. Sì, allora io, insomma. Io Faccio la stessa cosa, punto proprio la pistola sul tizio. Ok, è un dado solo, Ah, perché devo ricaricare. Esatto. Ricaricare. Vabbè, sì, la ricarico, gliela punto in testa e sparo. Vai. E faccio... 11. Però no, aspetta, uso l'eroismo, vai. Tanto. Ok, descrivi. E, niente, la punto in testa e faccio tipo... Ma niente, non dico un cazzo, la punto in testa e la testa ti si squarcia. Ok. Segna anche tu un'anima di livello 1, che ormai hai un fottio. Esatto, sto accumulando. E Luca? Le colonne che dicevi dove stavano, dove non stavano gli oggetti, sì. Quanto sono alte? Non tanto, sono tipo piedistalli. Quindi niente, non sono... Ok, allora... vabbè, ricarico... con un dado e spari. E con l'altro sparo. Vai. Allora. Non è più violenta. 2. 1. Descrivi. Stessa cosa di prima. Mega onda d'urto direzionale. Ok, allora ti dico che se non li ammazzi non prendi le anime. Non penso, sì, è vero. Infatti io dovrò cambiare qualcosa, però il dottore per antonomasia non può uccidere, quindi non so, boh. Devo vedere. È giusto, ci sta la difficoltà. Com'è? Aumenta la difficoltà, è giusto. Se infatti... No, non lo so, mo ci ho pensato, però lui ha il codice morale che non può uccidere, parlando, cioè dice sempre quello. Quindi... Sì, ah, dopo che ho sparato, vedete, cioè dopo che ho sparato al tizio la testa gli è esplosa, al cane, vedete che faccio, no! Avevo la frase perfetta, potevo dire What's up, dog? E dico che comincio. Beh, ci sta anche che tipo tu non prenda seriamente tipo nulla di quello che sta accadendo. No, infatti, cioè, il prossimo turno penso lo salterò a lamentarmi di questa cosa, quindi... Gava. Wolf! Quindi? Il cane non è riuscito a fregarmi il bastoncino o sì? Il bastoncino è nel tuo esofago. Ma è appuntito. Sarà interessante per qualche ora. Vabbè, io mi concentro per far funzionare velocemente i sacchi gastrici, i succhi gastrici. Per perché, scusa? Ma non puoi scioglierlo quello sei tu, Fede. Se ti autosciogli, poi... Mi sa che non ha... Ok, mentre rispiegate a Gava, io vado in bagno mentre spiegate a Gava il gioco, per favore. Cioè, tu sei quel bastoncino, in sostanza. Quello sei tu. Ah, ok. Chiunque ti usa... Tu puoi controllarlo. Raga, quindi ammazzatemi, così liberate il bastoncino dallo stomaco. Potresti farlo da solo, cioè, in qualche modo potresti... Io con le zampe... Nel senso, potresti tipo farti sbranare, così magari qualcun altro, tipo un altro cane o bende. Cioè... Oppure ammazzi intanto un cane per sicurezza, così poi c'è l'anima per ritornare, no? Ah, sì, è vero. Praticamente, se tu ammazzi una creatura, sì. Prende un'anima, sì. Quando tu muori, puoi resuscitare il tuo corpo, sì. Usando quell'anima. Cioè, il corpo... Quindi diventerà finalmente... No, il corpo dove sta, immagino. Cioè, il corpo... Ma se mi ammazzo... L'unico allora, modo per diventare una persona, Gava, è che tu ammazzi... Cioè, si domino come spirito, ma ti incarni in una persona che non diventa omino. Quindi non sarai mai un omino. No, l'unico... No, puoi essere un omino. No, allora, Gava può essere un omino se usi la tua arma per uccidere un omino. Capito. E cambi corpo nell'omino. Puoi farlo una volta a sessione, sì. Figo. e lo puoi fare, e questo è il modo più veloce che avete per livellare. Se tipo c'è un'anima molto grossa, cioè una, non una, un PNG molto grosso, tipo livello 5, e voi lo uccidete, avete il suo corpo di livello 5. Quindi le caratteristiche salgono di conseguenza. Ma non sarà mai il quello è interessante. Ma non sarà mai. Ma lo potete fare una volta sola a sessione. Ma questa cosa Rick può capirla? Usando tipo conoscenza? Se usa... No, sì, boh, secondo me ci sta che la capisca. Anche Oddis sa un po' di queste cose. Gavano non ha capito un cazzo. E neanche io. Un bot, ma neanche il suo PG ha capito un cazzo. Dimmi cosa fai, quindi. Benissimo. Dai, tocca a me o no? Sì. Ah, dicevo, un altro modo è se uno di voi tre fa impugnare il bastoncino a un'altra persona e glielo fa usare, cioè come se fosse suo. Ah, ok. E quella persona, Gava, poi potrà usare il suo cambio corpo della sessione per entrare nell'omino. Non so se mi sono spiegato. Sì, ok. Quindi il cambio corpo non è gratuito? E è una volta a sessione. E devi usare l'arma tua. Può essere fatto in due modi. O uccidi, oppure il corpo possiede l'oggetto come se fosse suo. Cioè, quello che ti dicevo, che l'arma potrebbe essere potrebbe non essere un'arma, tipo un diamante, può essere, nel senso che se tu convinci qualcuno a averlo, tipo, ehi, tieni questo diamante, è tuo, puoi cambiare corpo e quindi avere un corpo più grosso e più forte. Però è più complicato giocare così rispetto a un'arma con cui l'ammazzi e poi incarni quello. Gava. E io provo ad ammazzare un altro cane. Cioè l'unico cane davanti a te e l'ultimo rimasto, tra l'altro. Oltre a te. Vai, tira. Usi due dadi. Due dadi, giusto? Quindi tre. Ma prima non avevo usato l'azione bonus, quindi erano diventati tre, quindi adesso saranno due. No, non funziona così. Se tu ne hai due e li vuoi usare entrambi per fare un'azione, diventano tre, perché li stai fanno tutte e due. Però quelli erano quelli del turno prima, non c'entrano niente, quindi adesso sono lo stesso tre. Sì, cioè due che usi insieme, quindi diventano tre. Non 19, anzi, 19 e 2, quindi 19... No, risolvi, 19 e 19, sono uguali. Questo mi sa che non l'ha sentito prima. Tra le altre cose. Quindi 19 più 19... Più 2, 40. Ok, descrivi, che spreco. E gli sbrano... la carotide, lo faccio dissanguare un po', cioè vedi proprio il sangue che parte in aria, proprio tipico da bianco, e basta. Ok, segnati un'anima di livello 1, e ora siete rimasti voi tre con davanti un cane, su cui vedete uno spirito di un omino di pan di zenzero. Boh, se non è aggressivo io dico... Per oggi ho avuto la mia dose di violenza. Sì, io già mi sono messo tipo così a fermare Jacopo dalla... Io sono molto spaesato e non capisco dove mi trovo, che sta succedendo. E sono un po' impaurito, me ne sto un attimo in disparte a pensare. Ok. Io guardo Luca che sta davanti a Gava e gli faccio... Non ti preoccupare, scatolina blu, ho finito per oggi. Mentre dite così, sentite il pubblico che a un certo punto urla tipo vai grandissimo, e vedete dietro di voi, vi girate ed è appena uscito dalla gabbia un tizio molto più grosso di voi, palestrato, con in mano una spadone. Okay. Sì, sentite, sì, il campione. Allora, io devo dire una cosa. Allora, quando ho sentito la gente esultare, credevo fosse per me. Quindi mi sono messo a scodinzolare tantissimo, soltanto che poi quando mi sono girato ho visto sto bestione e niente, un po' di cacca sotto. Domanda più meccanica. Con l'ama del vampiro, cioè io adesso ho perso il punto aggiuntivo di differenza. Allora, questa è una buona domanda, io non so cosa sia l'ama del vampiro. Perché io guadagno un punto di violenza per ogni nemico che uccido, ma finisce al termine, cioè l'effetto dura fino al termine del combattimento. Però devi attivare la magia. Devo attivare la magia. Cioè okay. Devi usare la magia all'inizio del combattimento. Perfetto. Quindi e puoi usarla tipo adesso. Ok, la magia, vabbè, però se sei a uno solo non ha molto senso. No. Okay. Se... Cioè, per attivare la magia, come si fa? Si spende un punto magia? O si fa un tiro? No. Dovete usare la magia, quindi tirate il dado come per usare le abilità, in cui però usate magia. Ok. Se fate 10 o più, la magia si attiva. In più, okay, se fate dei punteggi alti, ci sono tutti i vantaggi che leggete nelle tabelle. Tipo, sì, nel tuo caso, 15 vuol dire che ti dà 1 di massimo. Cioè tu devi fare almeno 15 per avere un più 1. Sì. E anche 20 purtroppo è un più 1, 25 è un più 1. Minchia, fa schifo sta magia. Vabbè. 30 sarebbe un più 2. E 35 è un più 2 ancora, eccetera, eccetera. Spendete punti magia, tanti punti magia, quanti la decina del punteggio che avete fatto. Quindi se hai fatto 25, hai sempre più 1. Però hai usato 2 punti magia. Ah. E i punti magia si recuperano come punti ferita. Quindi dormendo recuperate punti magia e punti ferita. Ma è una cagata, allora. Perché? Perché prendi un'altra magia. Beh, se vuoi puoi cambiarla. Comunque è forte se hai tanta gente e ne ammazzi tanta. Sì. Vabbè, dai, ci pensiamo tanto. Beh, tu ne avevi alcune di acciaio molto forti in realtà. Sì, infatti ero deciso fra quella e la prima di acciaio che si chiama... Attacco rapido. Esatto, quella era carina pure. Beh, prendi quella. Vai, cambiala. Vai, va bene. Vedi, attacco rapido è una magia reattiva. Quindi cioè, all'inizio del combattimento devo decidere se usarla. All'inizio del turno. Del turno, ok. Come funziona questo qui? Praticamente io all'inizio del turno, se l'attivo, posso ignorare il tiro di iniziativa, iniziare prima io, sì, e a seconda del tiro che faccio posso ispirare dei compagni a iniziare prima insieme a me. Io a quanto è lontano il tizio da me? Il tizio è lontano un dado movimento. Io sono più vicino a lui in questo momento o Edoardo? Siete tutti più o meno vicini uguali. Io faccio... Devo andare al bagno a cagare e scappo dall'altra parte, comincio a correre. Ok, usi tutte e due la reazione. Sì, tutte e due il movimento per allora, scappare. Le distanze qua sono tutte in dadi azione, quindi se tu hai speso 2 dadi azione per allontanarti, anche quell'altro dovrà spendere 2 dadi azione per raggiungerti. Ok. Easy, easy. E... Edo. Ok. Io sono particolarmente intrepido in questo momento perché le sfide mi piacciono e provo a picchiare il tizio. Perfetto, quindi ti avvicini, usi un dado movimento e attacchi. Sì. Ok. Boh. E 8 totale? Vabbè, un dado solo. Boh, penso ci sia comunque Anime e Sangue, ma non so come cazzo sia. Ma su Facebook? Sì. Sì, dovrebbe essere Anime e Sangue RPG, forse. Non so. Comunque con quel punteggio non l'hai colpito. Immaginavo. E... Luca. Sì. Senti, una cosa voglio dirti, non, cioè non te l'ho detto, però col tempo in cui loro hanno esultato si è aperta la cosa. Io ho fatto in tempo a ricaricare il cacciavite. Sì. Ah, ok. Va bene, allora... Diciamo, do per scontato che a, nel, ogni pausa voi ricaricate, quindi all'inizio di ogni combattimento voi avete l'arma carica. Carica, ok, perfetto. Ok, allora io uso i miei dadi per... Per colpirlo. Sì, poi ti dico come. 20. Lui proverà a schivarla. Che sfiga. Porca troia. Ok, colpito. Lo ferisci. Vedi che il tuo cacciavite sonico comincia a fare un gran rumore. E vedi che lui fa così e gli esce un rivolino di sangue da un orecchio. Tocca a Gava. Sono micidiale. Vabbè. Prendo la rincorsa e mi fiondo sperando di fare qualcosa. Ok, tira un dado. Più violenza. Cioè, come si chiama? Sì. Guarda. Ah, ok, 8. Totale? Sì. Mancato. Ok, nuovo giro, tocca a lui. Attaccherà uno a scelta tra Gava e Edo, e meno di 10 Edo, più di 10 Gava, Edo, e ti dà una spadata fortissimo, e fa 22, vai a schivarlo, sì. Però sono tutti e due dati io. No, è il nuovo turno questo. Ah, nuovo turno, sì, allora provo a schivarmi. Ok, io ti dico, ti ho detto quanto ho fatto, quindi tu in base a quello puoi decidere. Vabbè. Quanti dadi tirare? No, ho messo piace a Rip GDR, sono un cane. Lo so. Ciao. Fottetevi. Ho fatto 16, usando 3 dadi praticamente. Poi, allora, il punto eroismo si può usare a posteriori. Ah. Te lo dico, poi puoi anche non usarlo. Allora uso il punto eroismo, sì. Ok. Quindi hai un più 10 e tiri un altro dado. Ok. Vabbè, con più 10 direi che ce la puoi fare. Posso sommare il più 10 a un tiro che ho già fatto? Sì, sì, sì. Allora 23. Ok, sì, ce la fai. Di poco, eh? Ok, il primo Jacopo. E io mi guardo un attimo intorno e cerco di capire se posso scappare dall'arena. Allora, vedi che gli spalti sono abbastanza alti. In realtà... quello che potresti provare è arrampicarti, volendo. Ma di che materiale è fatto il muro? È pietra. Guardo il mostro, quanto è alto? Il mostro è un uomo molto alto e sarà 1,95 m. Ah, quindi non è tipo alto 3 metri che si alza su di me? È solo molto grosso. È solo palestra. Vabbè, fanculo, mi giro e sparo. Ok, ti avvicini. Ah, non riesco a sparare da dove sto? No. E spari. Tiri un dado. Ho fatto 13. Hai fatto 8, 13 totale, quindi è una ferita. Ok. Tocca a Odys. Allora, io un dado, beh, lo dovrò usare per ricaricare, ci siamo. Boh. Quanto sono distante di dadi dal tipo? E uno. Uno. E allora okay. mi allontano di un altro. Ok. Gava. Se sparo con uno tanto non faccio niente, quindi Gava. Gava. Sì. Cosa fai? Si riprova. Tira. Tre dadi. E risolmo. Come 32? Li ha spati prima. Non li devi sommare. Li sommi solamente se sono doppioni. Altrimenti prende il dado più alto. Sembra di giocare con mia nonna. 22. 22. E lui proverà a schivare. Sì, ma il mio era naturale ciccio, eh. Cosa? Il mio era 20 naturale ciccio. Chi se ne frega. E l'hai colpito. L'hai ferito. Ok, nuovo round. Tocca di nuovo a lui. Visto che l'hai ferito, si volta verso di te. Beh, tanto io sono l'anima. E ti tira una sprangata in faccia. No, so. 16. Ti fa... E lui fa 21. Vuoi provare a schivare? Sì. Puoi usare i dadi di movimento, ne hai due, uno o tutti e due, per provare a schivare. Il risultato che devi superare o eguagliare è 21. E ovviamente devo sommare stavolta. No, sono tutti uguali i tiri. Oh, non ce la faremo mai. 14. Totale? No, 15. Ok, volendo puoi usare il tuo punto eroismo. Ne hai uno in questa sessione, se vuoi lo puoi usare. No, sai che le ultimate si usano sempre alla fine. Ah, è giusto. Ciò che è giusto è giusto. Quanto hai di valore? 22. Aspetta, quello attuale dici? Il totale, cioè quello attuale, sì. 17. Come fai a avere 17 se il totale è 22? Perché prima mi hai detto di togliere 2 e poi mi hai detto di togliere 1. No, aspetta. Dovrebbe essere, diciamo. Sembra un po' no, c'era qualcos'altro. No. A parte le ferite, non ci va. No. Ferite è sempre una. Vabbè, ho sbagliato a segnare. Devi togliere 1 ogni ferita che hai subito. Quante ne hai subite? 2, 1. Io mi ricordo che una volta mi hai detto di toglierne 2 e poi ancora un'altra. Quindi sei stato ferito 2 volte, quindi il tuo totale di valore è 20. 20. No, cioè quello attuale è 20. Quindi lui ha fatto 21, beh, quindi sei morto. Ok. Ma io sono l'anima. Frega cazzo. Vedi che vedete che dà una spadata fortissimo e taglia in due il cane e vedete lo spirito sul cane che scompare. Ah, tocca... ma quindi se raccoglie il bastoncino io mi impossesso di lui. Se raccoglie lo usa, sì, però perché dovrebbe farlo? E tocca, ecco. È buono il bastoncino. Edo è stato ferito, no? Quindi avete lo stesso valore voi due. Tocca a voi. Stavo per fare questa domanda. Se nel corso della partita i valori cambiano. Cambia l'iniziativa, sì. E riordina tutto, ok. Voi quanto avete? Io anche 22. 22. Ok. Lui ha 27, quindi è ancora prima lui. Tocca a voi due. Voi tre. No, due. Tocca a tutti. Pure a me perché non ci ho messo l'uno di violenza, per quello non... Tutti insieme. Salla, l'attacco, ti voglio dire, tipo, io ad esempio vorrei fare questa cosa, vorrei usare il cacciavite per fargli diventare incandescente la spada e fargliela cadere. Posso dirti questa cosa oppure non lo posso fare qualcosa? Allora, in realtà no. Però da qualche parte dovrebbe esserci, che avevo letto prima, un tiro di vigore tale da disarmare l'avversario. Poi non tirare oltre il decimo livello, oltre il confine della realtà, ma porca di quella puttana. Comunque Gabe è riuscito a morire due volte in una singola sessione. Che si spegnerà? Che si prego? Ultimamente ho capito che viene fatto dopo. Cioè prima la fai e poi... Allora, questo è giocare un portatore, voi non siete portatori. La morte, la luce, Zeus. Sono un po' confuso. Perdere il corpo, punto eroismo. Ma se qui si muore quasi sempre istantaneamente, che senso ha curare? E appena uno ti fa un attacco muore, che senso ha curare? Beh, in realtà muori se riesci a eguagliare o superare il tuo valore. Se sei ferito è più facile eguagliare o superare il valore. Cioè il valore attuale, capito bene? Sì. Troppo, adesso si risetta quando ti perdi il corpo. Però perdi dei punti. Resuscitando perdi, hai dei malus. Dopo ci Vabbè, no, scusa, non volevo, era, volevo fare una cosa particolare. Però posso fare anche qualcos'altro. No, ma c'è, che l'ho letto prima e non lo trovo. Mi spiace, scusate, ma... Allora, io provo a parlare col bestione. Sì. Gli dico... Fermo un attimo, poi continueremo a ucciderci. Io non piaccio a te, tu non piaci a me. Però se non mangi subito qualche zucchero andrà in catabolismo. E ti indico il bastoncino di Fede. Ok, lui è evidentemente confuso. Ora mi tira su, mi tiri su. E cos'è? Sociale? Come cazzo si chiama? Interazione. Interazione. Aspetta, tirare in interazione io ho 3 praticamente, quindi... È uguale agli altri, usi il tuo dado o i tuoi dadi per tirare in interazione e devi superare l'interazione, il suo tiro di interazione. Ok, va bene, io uso tutti e 2, quindi 3, perché tanto avevo ricaricato il turno prima. Cioè non avevo sparato, non avevo ricaricato. Ok. Allora, 15 più... 18. Hai fatto? 18. 18. Pari. Vedi che lui è confuso e si ferma un secondo a riflettere su quello che gli hai detto. Quelli che hanno agito cosa fanno? Allora, io è il turno prima che ho provato a schivare senza molto successo. Cioè, no, questo turno è Gava che ha provato a schivare senza aver avuto successo. Ok. Decisamente. Vabbè, diciamo che io prima per schivare ero finito un po' a terra, cioè insomma ho dato una bella botta. Mi rialzo e provo a dargli un fendente su... Cioè, ci sono i colpi mirati? Come ci sono qui? Come funzionano? No, ferita. Sì. Tira. Okay. Tiro. Vabbè, allora tiro 3 dati. Direi un 22. Hai tirato 3 dadi? Sì. Ok, ferito. Dov'è che lo volevi colpire? Tipo una gamba. Ok, lo colpisce la gamba e vedi che lui in effetti è un po' rallentato. Ok. Jacopo? Io ricarico l'arma e... mi avvicino cioè come si dice, al muro che mi sta più vicino. Ok, vedi, praticamente lo spirito guadagna l'anima contenuta nel nuovo corpo. Se la possessione avviene mentre succede il corpo sconfiggendolo, lo spirito potrà riportarlo in vita già dall'azione seguente, con la normale spesa di anime e punti qualità. Segnate nuove qualità del corpo, i nuovi punteggi valore e punti magia. Inoltre il nome del corpo, bla bla bla. E... Resurrezione invece e dice che... Vabbè. Ok, vabbè, non mi interessa. Scusa, dicevi, Jacopo? No, mi avvicino al muro più vicino e ricarico l'arma. Ok, vedi che il tizio è ancora confuso da quello che gli hai detto e quindi non attaccherà nessuno in questo round. Tocca di nuovo a voi. Ma Federico? Federico, tocca di nuovo a voi, ma Federico è l'ultimo. Perché ha il valore più basso. Perché prima aveva parato. Se pare comunque si dà di azione. Ah, ok. Lui ha dato tutti la di azione ed è morto. O non hai usato tutti i dadi azione? Quanti dadi hai tirato? Tre? Sì. Ah, sì, allora sì. Vai, tocca a voi tre. Ok. Oh, no. Se volete saperlo, lui ha 26 punti valore adesso. Quindi è abbastanza ferito in realtà. Ok. Se vuoi, Odys, puoi riprovare. Cosa? A convincerlo. Io rifarei la prova quasi. Allora, tanto sono sempre a 2 di movimento perché mi ero allontanato a 2 dadi. Quindi prova a riconvincerlo e faccio... Comunque si vede molto bene l'immagine che hai messo. Sì? Sì. Pensavo venisse un po' sgranata, invece alla fine no. Al cellulare. Non si vede, vabbè. Quanto hai fatto, scusa? 7, con un doppio, tra l'altro. Hai sommato anche il tuo valore? Sì, ho fatto doppio 2. Vediamo se faccio un fumble. 2. Ok. E gli altri due cosa fanno? Allora, Jacopo si è addossato alla parete, al muro. Sopra la gente sì. Che urla, codardo, vai e battiti! Che cosa stai facendo? Io, cioè, provo un attimo la silenzio, bastardi, e comunque, cioè, sparo al tizio. Ok. Cioè, c'ho una mano tipo la parete e con l'altra sparo al tizio. E ho fatto 22. Ok, lui proverà a schivare. E colpito. 25. Ma morto o ferito? Ferito. No, ferito. Edo. Io diciamo, cioè, posso dire tipo qualcosa, cioè posso usare tipo una specie di adozione per, non lo so, essere, cioè, per perdere, fare virgolette, un'azione. In che senso? Cioè, sono indeciso sul da farsi, non so se picchiarlo sia la cosa giusta. Ok, però sei il penultimo ad agire, te lo dico, cioè dopo il terzo è solo Gava. Ok, Gava. Chiedo cioè, ai tipi qua se magari non sarebbe giusto magari convincerlo a non ucciderci. Uccidersi. Morte! Gava. Resuscito. Sicuro? Ah, è vero. No, aspetto che loro l'ammazzino e poi resuscito. E resusciti comunque nel cane, eh? A meno che lui non prenda il bastone. Esatto, io aspetto sperando. Ok. Edo, vuoi usare le tue azioni se no le perdi? Vabbè, non ho visto risposta. Puoi anche se no provare a convincere lui a non picchiarti. Sì, ci provo. Vai, tira interazione. Eh? Interazione. Ok. Direi 12. 12, va bene. Ah, vedete tutti che lui ti guarda e fa: va bene, ti ammazzerò per ultimo. Intanto tengo questo trofeo. E prende il bastoncino di zucchero. Wow. Sono in vita. No. Tocca a Luca. Ok, quindi ha preso il bastoncino. Quindi posso aver capito che se felice della fase può incarnare in lui, va bene. Che posso fare? Potrei anche ritardare l'azione. Ok, sì. Cioè me ne posso tenere tipo reazioni per dopo, magari. Sì. Sì, allora faccio questo. E gli altri? Mi ricarico l'arma e mi provo a tirare su sugli spalti, diciamo. Cioè mi tiro su. Sparare a uno sugli spalti a cazzo. No, mi tiro su e poi. Provi a salire. Ok, tira su vigore. No, violenza. Cazzo, perché viene vigore? Ho fatto 14. Ok. Cominci a scalare la parete. Vedi già però che della gente sopra è lì che dice: ehi, sei un codardo di merda, ora ti ributtiamo giù, stronzo. Edo. Sì, aspettate. Edo? Allora, io capisco che, diciamo, il tipo non è molto incline a quello che, cioè, alla resa. Mm-hmm. E allora dico qualcosa del tipo: non saranno più i miei compagni a proteggermi, ma solo io a proteggere i miei compagni, e lo picchio. Ok. Oddio. Che bello. Ispirazione. Ho fatto... Com'è se lo one shotta prima che Gava possa entrare? Esatto. 33. Descrivi. Almeno non ammazzarlo. Oh, scusa, se lui non ammazza poi così può diventare un palestrato. non serve più, pago l'abbonamento mensile. Va bene, descrivi. Ammazza. Vabbè, praticamente impugno la spada a una mano, a due mani, e dal basso verso l'alto gli faccio uno squarcio che va per tutto il petto. Ottimo. Allora segnati un'anima di livello 3. Se vuoi puoi cambiare corpo e entrare in lui, però. Oh! Diventa esatto. Dai, fallo, così tu lo prendi lui. Sono geloso del mio corpo. Oh! sì, a sto punto sì. Ok, allora, segnati che sei in un'anima di livello 3. Okay. Hai violenza 3. Mobilità 6 cos'è quell'altra? Interazione 3. Vabbè, ho 6 in movimento? Sì. Ah, però io. E quanto è l'interazione, scusa? 3. Ah. E magia sempre 0? Sì. Vabbè, e quindi ora, praticamente, l'azione è stata così. Tu l'hai tagliato a metà. Sì. E poi il tuo corpo si è afflosciato e si è alzato, si è praticamente rigenerato e rialzato il campione con la spada, e sentite agli spalti: sì, grande campione, uè! e tu ora possiedi il campione. Nella tua mano destra hai la spada e nella tua mano sinistra hai un bastoncino di zucchero appuntito. Ok, in possesso del corpo di Edoardo. Non puoi. Ok, allora... Ok, il combattimento è finito. Se volete fare qualcosa, se no, si apre un cancello in fondo e venite, e delle guardie scendono dagli spalti e vi fanno cenno di entrare nel cancello. Io mi isso sul muretto e guardo un attimo la folla e alzo l'arma e faccio: chi è che vuole continuare questo bagno di sangue? Chi è che vuole vedere continuare questo bagno di sangue? Tira su interazione. Ho fatto 21. Sì, no. Quelli che dicono sì, che sono più eccitati, ce ne stanno alcuni che sono davvero grossi, tipo muscolosi. No. Non come... Nessun maestro. Sì, cioè muscolosi sì, però non come quello di Eda. Però più, cioè, belli più di me, insomma. Come fisiologia forse un po' sì, come gioco sono tutte anime di livello 1. Grazie per il metagaming, proprio. E vabbè, guardo un attimo in giro, mi rendo conto che non mi sono comunque popolani e gentaglia, non è gente addestrata a combattere. Okay. Forte. Ok, niente, allora deluso mi giro e scendo. Ok, detto questo, venite scortati all'esterno. Prima che i tizi, cioè prima che ci scortino, io credo di aver più o meno capito che, cioè, come funziona, nel senso che io sono legato all'arma e se un corpo impugna l'arma io mi incardo nel corpo. Sì. Ok, allora, dato che prima ho intravisto che dal cosino di Zenzero c'era uno spirito, insomma. Provo a inserire nella mano praticamente del mio vecchio corpo il bastoncino di Zenzero. Non so se si può fare. Ah, io ho cambiato idea, scusa, non scendo dallo spot. Ok, Odys intanto. Allora. No, forse provo a, come si dice, se ho capito la cosa, provo a dire Edoardo di cioè, scusa, uno spirito non può possedere corpi morti. Corpi morti? Okay. Può solo resuscitare sul corpo dove è morto. Se è ancora in possesso dell'arma, in questo caso no. Vabbè, io mi accorgo che non succede niente e riprendo il bastoncino di Zenzero. Ci sta. Aspetta, Edo, cosa ha provato a farlo? Come ha provato a fare? Ha provato a dare in mano al corpo morto il bastoncino di Zenzero. Allora io consiglio a Edo di prendere uno dei cani che io non ho ucciso e di infilargli in bocca il bastoncino e, anche se ancora sono storditi, di portarlo in braccio. Quando si sveglia avrà dentro fede. Ah, ok. Mi fido del mio nuovo compagno, faccio quello che mi ha detto. Ok. Io guardo la folla e cerco il paesano che è vestito meglio, relativamente, diciamo. E lo indico e faccio: tu sei stato scelto! E gli tiro la portal gun, cioè gli tiro l'arma. Puoi anche ucciderlo, cioè colpirlo con la portal gun e entrare nel suo corpo. Va bene. Perché ne fa questo? Ovvio. ho fatto 22. Sì, abbondantemente. Niente, vabbè, il mio corpo si è flush, gli entro dentro. Sì, è tipo la puntata 01 di Rick e Morty, 301. Spoilers. E praticamente gli entro nel corpo e cioè, la porta gun me la nascondo. Aspetta, devo tenerla in mano oppure no? Cioè, posso anche... E praticamente tu spari e il corpo ha in mano la, quello che è, cioè la portal gun passa da un corpo all'altro. Sì, sì, sì, però dico, poi devo tenerla per forza in mano oppure posso no, metterla... mettertela addosso. Ok, me la metto in tasca e esco dal, cerco di uscire dallo stadio. Ok, ok. E intanto le guardie vi puntano le tipo lance, vi dicono, ma è quel cane? È un mio fedele compagno. Ah, d'accordo, campione, come vuoi. Andate alle celle, pronti per domani, un nuovo scontro. E vi scortano verso l'esterno. Ok, io faccio tipo così Edoardo che è riuscito, io stavo tipo pensando a inventare una cosa stranissima, invece ho detto una cosa semplice e ha convinto le guardie. Ok, voi venite scortati fuori, Jacopo. Io cerco di uscire, vado verso l'uscita. Ah, ho detto ok, è partito ok Google. Ma Dio. Bene, così. Ok, scusa, dicevi Jacopo? Ma ti arrivo il telefono nuovo? Piccola digressione. Da mo. Ok, un nuoio, il nuoio nuovo. Dopo ti chiederò, ma niente, provo a uscire, c'è qualche... Bellissimo. Pubblicità occulta. Vabbè, tanto non credo che... Comincia a uscire dagli spalti e nessuno ti caga e esci tranquillamente senza alcun problema. Quando sei fuori, vedi un tizio che ti si avvicina e ti fa: oh, grande Mark! Com'è stato lo scontro? Sì, sono io, Mark! Bello! Senti, sono un po' ubriaco, mi sai dire dove vivo? Mark, tira interazione. Ho fatto 15. Ok, e Mark, perché bevi così tanto? Poi tua moglie si preoccupa. Vieni, ti accompagno a casa. Ah, grazie. Sono proprio Mark. Super enfasi, tipo, ah, grazie mille. Esatto. Intanto, voi venite scortati in una cella che viene chiusa. Vi viene dato da mangiare, da bere, e l'ultima cosa che dice la guardia prima di andarsene è tipo: preparatevi per domani che ci sarà un nuovo scontro. E dopo un po' si sveglia anche Gava. Ok. Togliti l'anima di livello 1, Gava. Allora. Quindi io in questo caso ho un'anima di livello 3 e due anime di livello 1, giusto? No, hai solo due anime di livello 1. Ah, ok, mi sa, penso. Sì. Altra cosa, l'anima di livello 3 è quella che indossi. Cioè, esatto. Il corpo di livello 3 è quello che indossi. Sì. Io recupero il valore iniziale, cioè del corpo base, cioè del corpo quello che... in cui mi sono reincarnato, oppure è ferito quel corpo adesso? È una buona domanda e non lo so. Allora, gestire i corpi, di volare, no, possedere un nuovo corpo, perché a me, oppure sia stato sconfitto. Ah no, guadagna anche un'anima di livello 3. Ah, ok. Ah, e domanda, le magie dove si scrivono? No, allora, prendi l'anima di livello 3, ma devi spendere un'anima di livello 1 per il cambio del corpo, perché sei di livello 1. Ah, ok. Quindi ho un'anima di livello 1 e una di livello 3. Sì. Ricordate prima, sono superiore a 5, non vedo sotto... Ah, scusami, il movimento, quanto ti ho detto? Mi hai detto 6. Invece è 5. basta. Tutto il resto sono le nuove statistiche, come se fosse guarito. Ah, perfetto. E le magie dove vanno scritte? Su capacità? No, le magie sono sotto il colore, mi sa. Ah, ok, di sotto. Ah, ok, bene. Colore primario, numero minimo, eccetera. Dicevo, Gava, spendi e ti incarni nel cane. Allora, Jacopo, sei in una sorta di città, che è una città tipo romana. Ah, e vieni portato in una sorta di casa abbastanza grande, come se tu fossi comunque benestante. Ah. E vieni lasciato lì davanti e il tizio ti dice: ah, ci vediamo domani al lavoro, Sì, ci diamo in ufficio. In ufficio? Ah. Ciao, ma cioè, ciao, io sono Mark. Ciao Mark. Ciao da Mark. Ciao Marco, a domani, riprenditi. Come, scusa? Cioè, faccio finta di entrare in casa, entro in casa. Ok, entri in casa e c'è il tipico giardinetto appena entrato in casa, tipo domus romana. E basta. E poi dimmi, in giro velocemente se c'è qualcosa di anacronistico, tipo roba di metallo luccicante, roba anche magica, cioè roba che sta fuori posto, diciamo. Allora, in realtà non ti pare. Ti pare che abbia tutto un senso. E cos'è? Perché mi hai fatto un download di un'immagine? Oh, cazzo. Scusate. E l'unica cosa è che dopo un po' arriva una donna, ti si avvicina e fa: ciao Mark, com'è andato il combattimento e lo scontro? Sei stato all'arena? È stato bene, divertente? Sì, bene, divertente. E gli chiedo scusa, è andato qualcosa di strano ultimamente in città? Qualche evento strano? E no, ovviamente prima della mietitura, vabbè, possono capitare cose strane. Mark, ma stai bene? Sì, sì, sono Mark. Va bene, tutto bene. Esco di casa. Ok, ma quindi è stato scelto un campione? No, è rimasto sempre lo stesso. Ciao, tipo esco di casa. Non mi aspettare, ciao. Ok, voi nella cella fate qualcosa? Ci sono delle guardie fuori? No. Edo, se la campagna di Jacopo di D&D ci ha insegnato qualcosa, che quando c'è una cella bisogna aspettare. Aspettare che qualcuno ci salvi. No, allora io prima cerco di scambiare qualche parola con Luca, proprio, cioè, per conoscerlo un po' in generale. E poi provo a vedere come sta il cane. Esatto. Di nome e di fatto. Entrambe le cose non dipendono da me. Ah, possiamo agire liberamente così. Sì. Okay, va bene, quindi magari vabbè, condividiamo la storia di essere finiti dentro le Esatto, e ti chiedo se hai un'idea di cosa ti è successo. Cioè, ti dico proprio, io sono sicuro di essere morto, ma perché mi trovo qui adesso? Vabbè, io gli racconto nel mio caso che so esattamente cosa è successo, cioè nel senso che la mia anima è finita interamente con tutti i miei ricordi dentro al cacciavite, ed è una cosa che so spiegare, perché una volta lo avevo fatto con un'altra persona e nel suo caso potrebbe essere successo qualcosa di simile, ovvero solo che non era stato volontario. No, perché io ho capito, credo di aver capito che i nostri ricordi, il nostro, tra virgolette, spirito è legato alla nostra arma, cioè all'arma che possediamo. Esatto. Ma io non ho mai saputo di avere questo potere, nonostante io sia un re, E insomma, che mondo è questo? Dove siamo? Che è... Aspetta, tu in che universo vivi però? Un attimo, Edo. È strano perché vivo in un universo, tra virgolette, magico, cioè nel senso... Qua c'è, sembra l'epoca dei romani, però che ne sai? No, vabbè, però io te lo chiedo, cioè nel senso magari ti vedo un esperto e ti chiedo dove siamo, boh. Detto, beh, sembra proprio il periodo romano, io ti rispondo così. Ok. Quindi direi... Allora, voi non sapete, voi a parte le vostre conoscenze, vabbè, Luca in questo caso lo sa, anche Jacopo lo saprà, a parte quello voi non sapete altro sul mondo che vi circonda, però riuscite a capire il funzionamento delle cose. Quindi se per esempio Edo, che non ha mai visto un televisore, vede un televisore, sa che il televisore serve a proiettare immagini provenienti da una trasmissione che non è lì, e questo lo sa solo per il corpo che possiede. Ah, ok, ho capito. Quindi tipo se voi doveste salire su una macchina, Luca e Jacopo saprebbero guidare, ma anche Edo e Gava potrebbero capire come funziona la macchina. Cioè io in teoria so guidare, cioè il mio spirito sa guidare. Ah, ok. Ma quindi aspetta, io quando la tizia ha detto mititura ho capito cosa intendeva. No. Capisci il funzionamento delle cose che non appartengono al tuo mondo. Ah, forse ho capito, tipo memoria muscolare, ma non ho esatto, capito. Sì, più o meno sì. Ah, ok. E vabbè, io faccio capire a Luca che, vabbè, a Dottor Luca non ho idea di cosa stesse parlando e gli faccio capire che io provengo da un mondo che per quello che ho visto funziona in maniera un po' diversa da questo. E che a livello temporale e spaziale non so, cioè non è così il mio mondo, insomma. Ok, io dico ovunque e quandunque ci troviamo, una cella non è comunque un luogo dove si dovrebbe restare, quindi devo provare a evadere. Sono d'accordo, ci sono stato fin troppo a lungo in una cella. Ok, Jacopo. Allora, io cerco di trovare un posto, tipo una biblioteca o qualcosa di scientifico. Mm-hmm. Cioè, cerco di trovare qualcosa che possa contenere materiali che possono servirmi per scappare da questo pianeta, per tornare alla mia dimensione, per tornare... Allora, fai un tiro di interazione per vedere se riesci a orientarti, a chiedere, a... Ho fatto 13. Ok, ti viene detto dove potrebbe essere una biblioteca, però puoi anche chiedere informazioni alle persone se hai delle domande. Tipo chiedo casualmente: scusate, ma con la mietitura quest'anno cosa avete visto di strano? Come quest'anno? La mietitura è ogni 50 anni. Vabbè, quella di quest'anno, mica quella di 50 anni fa. Beh, ovviamente quest'anno speriamo che si trovino almeno 4 campioni come 50 anni fa, mi ha detto mio padre che è successo, e da donare per bilanciare il destino. Ma quindi non è una mietitura culturale, ma una mietitura di persone. Io dico, ma certo, la penso come te, tipo, e poi vado verso la biblioteca. Non so, tu c'eri oggi, ti chiede, tu c'eri oggi nell'arena? Sì, ho visto, ma il campione è sempre lui. Ma si sono svegliati gli spiriti? Ah, non lo so, vado verso la biblioteca. Ok, okay. E Cella? Allora, chiedo ai miei compagni di prepararsi con armi e fauci e provo a usare il cacciavite sul lucchetto per aprirlo, cioè sulla porta della... Ok, cioè... tira su violenza. Ah! Perché vuoi fare un danno al lucchetto, immagino. Ok, in questo caso, cioè, come funziona col turno, col tiro, che devo fare? Devi sempre tirare... due. Allora, aspetta. C'è sempre due che se li uso insieme diventano tre. Aspetta. Vabbè, prego. Allora. Dice, quando serve verranno lanciati i dadi. Ogni giocatore disporrà di un numero di dadi nel giro pari al punteggio di dadi azione del suo personaggio. Si possono lanciare uno o più dadi per ogni azione intrapresa. Visto fai un'azione cercando di aprire il lucchetto, puoi tirare tutti i tuoi dadi. E... ok. Solito. E poi ci sono i valori sfida tipo D&D a seconda della difficoltà. Tipo, la porta direi che è una difficoltà media. Tra l'altro non è legno, quindi dovresti potercela fare. La difficoltà è 25. La difficoltà è 25. Esatto. Allora, io ho la mia violenza. Ti piace come ho studiato, eh? Hai studiato molto. Anche quindi si tirano tutti i dadi. Allora, facciamo così. Ho fatto 21. Posso usare il punto eroismo? Sì, certo. Okay. Vabbè, senza che puoi rilanci, tirare un altro dado, però comunque hai aperto. No, tira un altro dado. Ok. No, 17, ho fatto 19, 17, 16, vabbè. Quindi il totale uguale. È? Il totale sarebbe 31, direi. Ok. Apri la porta, però la serratura scatta, come cioè, non fai un gran casino, tipo sfondi tutto. Semplicemente apri la porta come se avessi la chiave. Oh, ottimo. Ah. E bene. E quindi tipo faccio cenno di seguirmi e comincio a uscire a cercare una via d'uscita. Ok. Jacopo. Io nella biblioteca posso, cioè siccome come diciamo abilità gratis, tra virgolette, di blu posso leggere testi velocemente. Riesco in qualche minuto a farmi un'idea di cosa sta succedendo. Avete tutti tranne Gava, probabilmente, la lista dei prodigi, no? Tu che sei come colore primario? Bianco. Se no Luca te l'ha mandata. Bianco è emettere un debole bagliore, addormentare un bimbo, ridare fiducia a una persona abbattuta, lenire il dolore di una ferita, migliorare le condizioni di un malato. Queste qui sarebbero... No, non sarà. Tu potrei, questi prodigi qua possono essere usati gratuitamente, cioè no, non gratuitamente, possono essere usati a volontà e avere questi effetti qua o un effetto simile, cioè una cosa tipo flavor che ti fa fare il tuo potere. Nel tuo caso tu vuoi assorbire conoscenza molto velocemente, quindi spendi un punto magia. Sì. E in pochissimo tempo riesci a ottenere più nozioni possibili del tempo che ti circonda, cioè o meglio di quello che hai letto nella biblioteca. Sì, di questa cultura, insomma, della mettitura. Allora, sembra una sorta di impero romano, ma in realtà non è vero impero romano, nel senso che ci sono alcune differenze dall'impero romano che vedi, che ricordi. Innanzitutto non è la stessa regione, non è in Italia, ma in uno stato di una forma diversa, in una terra diversa, in un mondo diverso. Quindi l'unica cosa uguale all'impero romano è l'apparenza, la cultura, la tecnologia. Ah, ok, quindi non c'è una tecnologia avanzata da qualche parte? No, tranne al tempio. Tu sai che ogni 50 anni c'è una leggenda per cui devono essere trovati in 50 anni i portatori di spirito, quindi le immagini, le armi. Sì. E sacrificati, una volta risvegliatisi, al dio alla bilancia del cosmo, la bilancia cosmica. Okay. Sacrificandoli, il regno, l'impero vivrà in pace perché l'universo, è il karma è bilanciato. Ok. Immagino che il tempio sia una struttura abbastanza grande e abbastanza sorvegliata, giusto? Tu sai, cioè leggi una mappa o qualcosa, o informazioni, dov'è il tempio, e sai che il tempio si trova vicino al, a quest'arena, perché è un'arena speciale fatta apposta, ed è abbastanza ben sorvegliato, ma in realtà non è una banca, ci sono alcune guardie. Io faccio un sospiro e nel medico mi sa che ho bisogno di scatolina blu. Chiudo e torno allo stadio. Ok, gli altri intanto provano a uscire dalla prigione e si ritrovano in un lungo corridoio che finisce con una porta chiusa e una guardia davanti che non vi ha ancora visto. Ok, okay. Porta chiusa e guardia davanti. Aspetta, guardia davanti, cioè sempre dentro dal nostro lato. Sì, cioè guarda nella vostra direzione, ma voi lo vedete dalla stanza delle prigioni e quindi non vi siete fatti vedere. Ok. Cioè come se voi sbirciaste dalla porta e vedete un corridoio abbastanza lungo con una guardia in fondo che guarda nella vostra direzione. Ok. Io provo a parlare col cane. Gli dico: oh signore, oh signore, ascoltami. Posso usare il mio prodigio, ovvero aspetta, dare un comando chiaro e dirigere chi non sa fare cosa? Chi non sa cosa fare, chi è nel panico è confuso? Beh, lui sa cosa fare. Cioè, quello che puoi fare è andare lì, per esempio, intimidirlo, confonderlo e poi usare il prodigio. No, beh, io lo chiedo gentilmente. Vai, se riesci, vai davanti alla guardia e attirala verso di noi. E poi aspetto che mi faccia qualcosa. Ma essendo cane posso capire. Tu sei il tuo spirito, però. Ok. Essendo cane. Quindi? Dai, sì. Vado ad attirare la guardia. Ok, appena esci... attivo il mio prodigio. Vado vicino alla guardia e divento fosforescente. Cosa? Attivo il mio prodigio, vado vicino alla guardia e divento fosforescente e poi vado via. In teoria una guardia, cioè, si sospettisce un pochino. Okay, e ma succede una cosa prima, che la guardia ti punta la lancia e dice: tu, bestia, dovresti stare nelle gabbie, da dove sei uscito? E vado via. Ok. La guardia ti insegue. Ah, usi il prodigio? L'ho detto. Ok, togli un punto magia. Ah, perché non erano gratis. No. Fossero i... come si dicono? Sono i cantrip. Ma i cantrip non costano. Piagnone, i punti magia, ho capito quanti ne avrai, 200.000. Dai. Ho messo due punti su magia. Ah, il power player che però non usa le magie. Posso usare tanti prodigi. Senti una roba, allora la guardia ti segue. Vabbè, io dico al mio amico dottore di... cioè, che la vorrei almeno tramortire quando arriva qui senza fare troppo casino. Ovviamente, cioè, sì, era quello che avevo capito volessi fare, sì. Okay, la guardia esce, cioè, gira l'angolo, okay. Tocca a voi. Se riesco, voglio dargli una botta col piatto della spada in testa, cioè senza ammazzarla. Ok, tira sempre su violenza, però. Ok. Posso tirare i soliti dadi massimi? Sì, sì, sì. Doppio 16, quindi vabbè, 32 più... Ok, 33. Quindi la vorresti addormentare, cioè far svenire. Sì, gli vorrei dare una bella botta in testa forte in modo che... Ci riesci, gli dai una botta fortissima e la guardia sviene. Ok, perfetto. Ok, Jacopo. Ok, vabbè. Io, cioè, sto arrivando allo stadio, però magari... Cioè, io ci ho messo più tempo, quindi fai fare a un altro Paolo, non lo so. No, dimmi dove vai. No, io vado, cioè, cerco di andare a recuperare loro. Ah, ok, perfetto. Allora, loro? C'è una cella aperta lì? Cioè, dove siete passati voi, sì, ci sono delle celle aperte. Ok. E allora trascino la guardia dentro una cella e chiudo la porta. Ok. Possiamo dirigerci verso l'uscita adesso, tipo? Sì, vi dirigete verso l'esterno del... quello che pensate sia l'esterno del... di questa arena. E arrivate all'uscita e vedete che verso di voi si avvicina un uomo che non conoscete. Ma sopra di lui vedete lo spirito di Rick. Io guardo Luca e faccio... Senti, dottor Chi ha un nome stupido. Dove hai lasciato la scatola blu? Gli dico... La scatola blu non può essere recuperata per il momento e comunque non sarà una cosa facile. Adesso dobbiamo allontanarci da qui. Poi ne parleremo. Io sulla strada gli dico tutto quanto, cioè gli dico come funziona la mietitura, il tempio, e dico dobbiamo andare al tempio e lasciare questa dimensione. Niente. Ok, gli altri sentono anche gli altri comunque. Cioè immagino che... Cioè, che siamo in Impero Romano, non è in Impero Romano, tu non sai che cazzo di... Vabbè, sì, io non so cosa cazzo di... io a Roma l'impero è brutto, è cattivo. Sì, esatto, dobbiamo scappare. Ma io ho scritto l'impero. No, cioè questo è in vita. Ho un nuovo compito in quanto questo non è il tuo pianeta, calmo. dobbiamo andarcene. Questo pianeta, secondo me, l'unico modo per andarcene è andare in questo tempio dove dovevano sacrificarci. Il problema è che se scoprono che noi siamo gli spiriti, vorranno probabilmente tipo appenderci per le palle e fare noi dei buoni bocconcini. Capisco. Questo tempio dei sacerdoti? E dunque, in realtà è tenuto da una milizia. Quindi probabilmente ci potrebbero essere dei soldati all'interno. E i sacerdoti, però magari un solo sacerdote. Quanto grande è la spada di Edoardo rispetto a lui, cioè rispetto al corpo che adesso? Ma hanno detto che è una spada corta, quindi in realtà sarà piccola. Cioè è una spada corta, è una spada a una mano. Ah, una spada, ah, ok. Perché io lo guardo e faccio, senti spadina, fai parlare un attimo gli adulti, e mi giro verso lui e faccio, qual è il piano d'ingresso? Qual è? Qual è il piano d'ingresso? Come facciamo a entrare? Beh, dobbiamo... Mi piace come hanno due PG che non collaborano per niente. Beh, dobbiamo prendere i corpi in maniera più o meno violenta di qualcuno della milizia e entrare in quella maniera. Ah, sì, mi piace. Faremo così. Ovviamente tu proponi quella più violenta. Certo, c'è un'altra maniera. No, effettivamente... Meno veloce. Qualcuno potrebbe non sopravvivere alla procedura. Io sono stizzito dal suo comportamento e diciamo che sono... cioè gli metto il muso. Ok. No, e poi c'è anche il cane. Comunque in ogni campagna che si rispetti, Edo deve essere il denigrato, il... Esatto, una volta perché sono un uccello, una volta perché... Ok, quindi tornate verso, cioè vi muovete verso questa struttura più alta, vicino all'arena, che sapete essere, almeno che Rick sa essere il tempio. Vedete subito che fuori ci sono due guardie con le lance come quelle che avete visto prima. Questo, scusami, dov'è? Davanti al tempio. Ok. Dovrebbe riuscire a ammazzarne una, Federico? No, perché non può cambiare corpo. Come? Non può cambiare corpo. Ah, è vero, l'ha già cambiato. A meno che una di loro non impugni il bastoncino di zucchero e lo usi. No, è un po' rischioso. Tipo, tu dovresti andare lì col bastoncino. Tieni. Ho un'idea. Ma usarlo cosa vuol dire, visto che un bastoncino di zucchero? È usarlo come se fosse proprio, quindi sentirlo proprio. Okay. Cioè non basta che tu gli vai lì e glielo fai toccare, capito? Ah, cioè non basta che lo tocca, devo tipo usarlo... E deve essere suo, deve appartenergli. Quindi la cosa più facile, per esempio, è se ha un'arma, dire tieni, uccidimi con questa, oppure non so, una cosa del genere. Ah, ho capito, Edo. Cioè, spadina, prendi questa... Cioè, no, aspetta però. Se la tolgo da Federico succede qualcosa? Si affloscia e ciao. Ah, quindi deve rimanere su Federico? No. Va bene anche che non sia su Federico, però il suo spirito ritorna nell'arma se lo togli dal cane. Ok, chiaro, sì. Allora, il corpo che tu hai adesso è di un campione che tutti stimano molto e sono, cioè, sono grandi fan. Potresti provare ad avvicinarti a una guardia e a dirgli che... Cioè, la guardia ti dirà, oh mio Dio, il campione, che onore, e tu dirai, ah, pezzi miei fan. E per questo ti regalo quest'arma potentissima e gli fai prendere l'arma che questo trofeo dell'ultimo scontro. Questo trofeo che il nemico l'ho ucciso oggi. Se il mio amico fedele sta portando... Se la smetterai di chiamarmi Spadina, ci penso. Io ci penso un attimo, va bene, come vuoi che ti chiami? Spadona. Lo chiami? Noctis. Va bene, ci penserò. No, allora prendi questo bastoncino e lo spezzi. Sarebbe molto da Rick. Va bene, sì, ci provo a fare come dice il nostro caro Rick. Ok, però Fede deve essere d'accordo a vomitare il... Metto una zampa in bocca. Ah, non c'è in bocca? Sì, c'è in bocca, sì. Ah, allora. Sì. Ok, allora. Ok, ti avvicini e vedi le due guardie si girano verso di te e fanno ehi, ma tu perché non sei nell'arena? Mi hanno dato un giorno di ferie. Ok, tira su interazione. Ok, io guardo il cacciavite e lo preparo tipo facendo lui stare pronto. Io prendo la mano e metto la mano in tasca. 15. Ok, e quindi cosa consiste il tuo giorno libero? Posso farmi un giro in città e per esempio visitare il tempio. Bene. Se poi volete magari possiamo fare un combattimento di prova, così giusto per sgranchirci un po'. No, vabbè, sappiamo che sei più forte. No, vabbè, ma per allenamento, solo che voi, uno di voi dovrà combattere con questa arma qui. E ora mi tiri su interazione. Carino come l'hai messa, mi è piaciuto però. Ah, ma si è trovato la cosa. 10. Vabbè, ho fatto 4 io. E io voglio farlo io, e vedi che uno tira via la lancia e fa: dammelo, vai, ti sconfiggo. Bene, io metto via la spada, cioè la metto in un boh, cioè tipo nella cintura, così combatto a mani nude. Faccio finta di combattere a mani nude. Ok, lui prende in mano il bastoncino e Gava, credo che tu debba perdere qualcosa, ma non mi ricordo cosa. La vista. La vita, quella già è tanto. La vita è una pena guadagnata, è finita. Mi sta venendo questo gioco, eh? Possiamo fare tutte le sessioni. Non devi dare in spesa. Ah, intanto... boh, non so dove cazzo sia. Vabbè, non mi interessa. Allora prendi, segnati che hai un corpo di livello 1, cioè di un'anima di livello 1, e segnati quindi che praticamente hai più 1 a tutte le caratteristiche tranne magia. E voi vedete tutti che dal corpo della guardia esce lo spirito dell'omino di Pan di Zenzero. Zenzi! Ok. E che la guardia dice: Zenzi, oh, finalmente, perché non aveva mai parlato quel cazzo di cosa. Io ho una voce. Vedi altra guardia che fa: dai su, allora combattete. Guardandomi un attimo intorno rapidamente, vedo altre guardie, cioè c'è molta gente in giro? No, non c'è quasi nessuno. Si comincia a calare la sera. Ok. Voi siete a distanza e guardate, vedete la scena comunque, gli altri due. Andiamo. Ok. Quindi? Approfitta per sgozzarlo, che io non sono troppo lontano per poterti fermare con la mia etica. Luca, è il metagaming. Vabbè, facciamo così allora. Possiamo ammazzarlo. Estraggo la spada al volo e cerco di stordire anche questa guardia. Vai, tira. Mi piace come non uccidete nessuno. Ok. Posso usare non uccidere nessuno. Volevi dire loro. Comunque, scusate. In effetti, ripensandoci, Rick e Tamarro da giocare. È bello, sì, infatti. Posso usare tutti i miei dadi azione? Sì, sì. 20. Ok, stavo per dire, devi far più 18. No. Li scrivi. No, anche questa, anche questa guardia, cioè estraggo velocemente la spada, col colpiatto gli do in testa e cade a terra. Ok, siete tutti e quattro. Prendo il corpo della guardia e cerco di nasconderlo da qualche parte, non so dove. Il corpo? C'è spuglio o qualcosa del genere. Va bene, intanto voi avete visto tutta la scena da lontano. Io mi sto collassando dal disco. Sto ridendo. Aspetta, quindi scusami, l'altra guardia che fine ha fatto? Ci sono perso un momento. Gli ha dato una spadellata in faccia, anzi una... Okay. Come si chiama? Addio, una secchiella. Una crespella. Una crespella in faccia. La secchiella come detto. Salvatore, devo chiedere, hai detto vabbè sì, se lo fa impugnare ok, ma se io invece ho ancora la mia trasformazione, no, il mio passaggio, quello della partita, si può fare su uno che non è, o deve essere morto, il mio cambio di anima? Uno dei due muore, cioè quello dove sei tu adesso muore il corpo, tipo adesso il cane che ha lasciato il bastoncino è morto. Perché l'anima, oddio, la prende lo spirito di Gava. Ok, quindi se io adesso volessi entrare nel corpo della guardia, lo potrei fare a patto di morire. E sì, cioè muore il corpo che hai tu adesso. Mm. Cioè è già morto in realtà. Vabbè, si prende, muore anche quella guardia lì. Tecnicamente... In realtà non è eticamente... Ok, non è eticamente giusto, ma non è neanche sbagliato, perché... Cioè, in qualche modo potrai giustificartela, tipo, non so, siamo in un altro universo e non... Non c'è problema, lo faccio io. Cioè, io non ho problemi con questa cosa. Fermo Luca, che sta lì a fare immaginare, cioè, dottore, tranquillo doc, e mi trasferisco nel corpo della guardia svenuta. Ma non c'è, a che pro? Per avere io la guardia dentro l'edificio. No, ma tu Jacopo non lo puoi fare perché hai già cambiato corpo. Ah, è vero, cazzo. Cioè, vabbè, tu no, puoi ucciderla e prendere l'anima. Sì, quello sì, puoi farlo. No, quello non lo faccio. Cioè, non mi serve adesso. Cioè, allora qua in realtà ci sono diversi tipi di morale. Eric non l'ha, quindi non ha problema. No, beh, io devo bypassare un attimo questa cosa, non faccio più niente. Facciamo così. Cioè, in realtà tu potresti pensare invece che puoi uccidere solo chi se lo merita. E quindi non la guardia, però magari qualcun altro in futuro sì. Oppure uccidi solo per difesa, non so, qualcosa del genere. Ok, facciamo così, tipo, visto che ho tipo tutte le personalità, ecco, in qua camera. Divorare le anime. Funzionale. E vuoi che i personaggi non uccidano inermi civili, ma solo i loro nemici, o solo un tipo di particolare di creature. Quindi i PG potranno compiere atti morali solo se commissionati dal narratore. E poi razionali se, per esempio, solo cose magiche, che non sono vive, però per il dottore è un po' strano, e morale invece perché praticamente solo i nemici, solo chi è malvagio. Cioè ti puoi nutrire di chi è malvagio, però scegli tu, cioè puoi anche non fare nessuno di questi. No, nel senso, era per giustificare col tipo di personaggio. Vabbè, praticamente caccio la personalità. In realtà ci può stare anche che tu non cambi mai corpo finché non muori, e quindi per necessità. Sei un po' svantaggiato, però puoi farlo. Un po' sì, no, per il gioco sarei una pallissima al piede per il team. Beh, no, in realtà no. Cioè, sei svantaggiato tu perché non puoi usare le anime per darti dei bonus. Mm-hmm. Però tipo adesso avremmo tipo due guardie infiltrate dentro se usassi il corpo. Vabbè, cambia poco. Tanto abbiamo come vuoi, scegli tu. Basta che decidi, che così chiudiamo la sessione. Vabbè, cioè, volevo dire. Vabbè, no, se abbiamo Fede come guardia all'interno, lui potrebbe farci entrare. Ne basta alla fine una che fanno entrare, okay, e lei non ci lo apre. Fai. Va bene. No. Ok. Quindi avanzate verso la porta. Sì. Aprite un grosso portone, mm-hmm, e vedete un enorme... è tipo una navata, uh-huh, molto grande, con banconate tipo, cioè panche tipo chiesa. In fondo vedete un enorme portale, tipo i portali dimensionali della sparaporte, uh-huh, però nero, non verde. E davanti vedete un sacerdote che vi guarda e fa: come mai siete qui? Io sono Mark, e indico Edoardo e faccio: quello lì è il campione, ho visto oggi. Sì, ma quindi lo spirito si è svegliato? Sì, si è svegliato. Ah, e tutti e quattro? No, non lo so. Lui sicuro, però, indico Edoardo. Comincio a fare tipo... Ok, ma forse è troppo presto allora per attraversare il portale. Servono quattro spiriti entro una settimana. Ah! Faccio... Scusa, Fede, tu sei la guardia, devi far finta che, cioè, tu ci hai portato qui. Sì, ma Gava ancora, nella sua testa ancora un cane. Che avrà voluto dire. Fede, di qualcosa, rispondi tu che sei quello con più credibilità. Io? No, Fede, cioè, all'interno del tempio lui è credibile, è una guardia. Ci sono persone qui di fiducia, sono persone di fiducia qui, quindi possono parlare liberamente, cioè ci metto io la faccia su quello che diranno. E per la faccia intendiamo. Ma tu chi? Quindi per male ci cambieranno, insomma. io dico, ma in realtà anche lui è uno spirito. Due spiriti sono sbagliati. Ho capito. Io sono Mark. Beh, Mark, perché non ci mostri la tua pistola? Non so di cosa stai parlando, Stellina. Vedi che mi avvicino verso vicino verso il sacerdote e faccio: spiegami un attimo, hai parlato di portale, giusto? Tipo, mi faccio molto interessato. Sì, spiegami. Faccio tipo lo studente interessato. Il sacerdote guarda confuso la guardia. Guardia, noi siamo in quattro e ci abbiamo strati. Io sono Mark. Noi siamo in quattro, io sono Mark. Cos'è che hai detto, Gava? Io sono Groot. Cos'è che hai detto, Gava? Noi siamo in quattro e con tutti l'anima, quindi facci passare. Ah, siete quattro spiriti. Ma allora bisognerà avvertire l'imperatore per avviare la cerimonia. Non è solo una qualità mia dall'imperatore. E quando va? Vedi che cioè, in questa cerimonia veniamo mangiati per le nostre avventure, non lo so. Ma cosa se siete spiriti, guardie, guardie. Eccomi, eccomi, dica, dica. E vedi che il sacerdote si volta e si mette a cercare le guardie e va verso l'uscita della navata. Io lo prendo, c'ho anche una qualche lancia. Se in volete mano. Agire insieme, agisce prima chi ha il valore più alto. Ok, posso dire una cosa? Allora, quello lì è un sacerdote, mo mi sono un attimo assentato perché stavo leggendo una cosa delle cose che mi hai mandato. Quello lì è sacerdote, quello che hai detto? Sì. Ok, ma il portale è aperto? Sì. Ragazzi, ma perché non ci buttiamo nel portale? Cosa ci può succedere? Non ho capito che c'era già il portale aperto. Beh, affanculo, ciao! Che cazzo se ne frega? Vai, ciao. Ma sì, tanto qualsiasi dimensione è migliore di questa. È bruttissima questa. Hai detto che è bruttissima. Non può piovere per sempre, Luca. Esatto. Dai, andiamo. Ok, dai. Corriamo verso il portale e saltiamo. Ok, sì. Saltate tutti nel portale e diventa tutto nero e qua si chiude la puntata prima della one shot di Anime Sangue. Cioè, la cosa bella che era quello che dovevano tipo catturarci, fare quello che avremmo dovuto evitare, l'abbiamo fatto usando i sì, e appare una scritta con scritto nel prossimo episodio di Anime Sangue. E vedete tipo voi che alzate la testa, i vostri personaggi, cioè, tipo la scena tipo Avengers, che cadete, alzate la testa e davanti a voi c'è una città tipo New York, ma con tipo Zeppelin e schermi volanti tipo futuristica, cyberpunk. Nazi York. Esatto. Stato. Basta. E qua si chiude. Europa tecnologica ci diverte, dai. Oddio, ci spero vuole... che vi sia piaciuto, a parte Gava che non so quanto abbia capito del gioco. Ma sì, ho capito. Vabbè, intanto ciao a tutti. Ciao a tutti. Ah, chiudiamo, ok. Ah, non lo so, no, volevi chiudere sì, dopo. Sì, no, vabbè, e ci vediamo prossimamente per un nuovo streaming, magari di Urban Heroes, oppure non si sa. Perché ciao, volevi ciao. Negare che eravamo quattro anime.